Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal marzo 2012 mette gli altri animali al centro del dibattito su attualità, cultura, economia, consumi e altro ancora per affermare una prospettiva antispecista che non privilegi, come accade invece abitualmente, una sola specie su tutte le altre, cioè naturalmente la specie umana. Per questa redazione, tutti i viventi, nessuno escluso, sono degni di considerazione e di rispetto. La puntata di oggi sarà monografica. Abbiamo infatti deciso di approfondire un tema diffuso e terribile, quello dei bocconi avvelenati, chiamati anche esche velenose. Conosciamo le proporzioni di questo fenomeno? Abbiamo qualche idea sulle motivazioni che spingono a commettere questo crimine? Sappiamo riconoscere i primi segnali di avvelenamento in un animale? E sappiamo come comportarci per effettuare le dovute denunce, quali sono le implicazioni giuridiche? Ci siamo fatti queste domande e abbiamo dovuto in onestà rispondere no a quasi tutte queste domande. E per questo affronteremo assieme a voi questa strana, sconosciuta e inquietante materia. Per farlo ci avvarremo di tre ospiti, tre personaggi diversi che affronteranno la questione da punti di vista diversi. Fabio Santamaria dei Troglodita Tribe, il veterinario Massimo Raviola, l'avvocata Francesca Gramazio, l'attivista Antonella Brunetti di Brindisi. Parlando di animali, dobbiamo spesso affrontare temi tragici e profondamente deprimenti. Quindi, per cercare di riequilibrare, a volte ci piace indulgere in un pizzico di sdrammatizzazione. In questo caso lo faremo attraverso le scelte musicali, a tema poison, veleno, e attraverso una ricetta velenosissima ma rigorosamente vegana e cruelty free. Entrambi questi compiti li abbiamo delegati a Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, che è anche un bravo DJ, che ci aiuta a tenere alto lo spirito con la sua irresistibile ironia. Speriamo di avervi incuriositi. Abbiamo anticipato, non avevamo alcuna idea della consistenza del fenomeno dei bocconi avvelenati. Poi, un mese fa, prima di Natale, c'è stato l'episodio dei 12 cani morti avvelenati a Lampedusa. E a inizio gennaio un altro randagio è stato trovato avvelenato sempre a Lampedusa. Affinché l'atroce morte di questi individui non sia stata del tutto vana, abbiamo deciso di approfondire la materia e abbiamo scoperto che questa piaga causa un numero impressionante di vittime e che le segnalazioni che girano tra i proprietari di cani in città non sono che la punta di un gigantesco iceberg, perché le vittime predestinate di questa orrenda pratica criminale sono principalmente gli animali selvatici, individui che non verranno né visti né aiutati da nessuno e che moriranno in silenzio nei boschi, nei prati, dopo lunga agonia, lasciando purtroppo incustoditi i loro piccoli, i loro cuccioli, condannandoli così a loro volta a morire. Il primo intervento è a cura di Fabio Santamaria di Troglodita Tribe, attivista e autore di diversi libri sulla questione animale. Attualmente in libreria e nel web potete acquistare Chiudiamo i canili, Troglodita Tribe, pubblicato nel 2021 da Ortica Editrice. Del tuo veleno mi avvelenerò. La notizia è che in questi giorni ben 12 cani sono stati avvelenati nella piccola isola di Lampedusa. Si tratta di cani liberi, cani di quartiere, ma anche di cani che vivevano con i loro amici umani. La gente di Lampedusa non è abituata a questo tremendo fenomeno di cui si parla sempre troppo poco. Molti sono sotto shock perché il pensiero di un individuo che uccide con il veleno e con subdola vigliaccheria non può fare altro che creare un forte disagio. Eppure l'avvelenamento è una pratica diffusa in tutta Italia che sta aumentando in maniera preoccupante. Un cane ogni 12 minuti viene avvelenato. Nel 2020 ci sono stati 34.000 episodi, mentre nel 2021 sono saliti a ben 44.000. In Calabria se ne registrano 7.000, in Sicilia 6.000, in Sardegna 5.000, in Veneto 3.000, in Toscana e in Campania più di 2.000. Purtroppo, in caso di avvelenamento, il 70% delle vittime non riesce a sopravvivere. È una vera e propria strage che passa sotto silenzio, di cui ci si occupa pochissimo. Certo, il codice penale prevede una pena da 4 mesi a 2 anni per chi avvelena un animale, ma a livello di prevenzione, educazione, di informazione, non, si fa poco o nulla. Si avvelena ancora per dispetto, per colpire un umano in una delle sue proprietà. Si avvelena perché il cane o il gatto, semplicemente, infastidiscono o spaventano. Si avvelena soprattutto perché nella mentalità comune gli animali non contano e neppure vengono prese in considerazione le enormi conseguenze di un gesto così vile come quello di nascondere veleno nel cibo che qualcuno troverà su un prato, su una strada o in una piazza. Il veleno utilizzato in genere è il lumachicida, la cui ingestione comporta atroci sofferenze. Si può avvelenare con un gesto semplice e veloce, anche buttando un boccone dentro al giardino di una villetta, in un parco o persino dentro un'area cani. L'avvelenatore non affronta mai le conseguenze del suo gesto, vive la sua vigliaccheria nascondendosi sempre, fingendo, dissimulando. L'unica opportunità che abbiamo per combatterli, oltre a vigilare e a denunciare, è quella di parlarne tanto e ovunque, di far sì che il peso dell'immaginario collettivo finisca per schiacciarli, facendo loro comprendere quanto quel gesto sia ignobile. Dovremmo parlarne ovunque, tutte le volte che un animale viene avvelenato, tutte le volte che viene perpetrata una strage, dovremmo continuare a sottolineare l'ignobile vigliaccheria di quel gesto, l'essenza squallida di chi lo compie. E invece succede esattamente il contrario. Gli avvelenamenti aumentano fino a diventare vere e proprie stragi di cui nessuno parla. Tendiamo ad abituarci, a mettere da parte quel dolore, a lasciarci sopraffare da quella disarmante sensazione di impotenza e di rassegnazione. Le morti allora non vengono più documentate e la notizia passa inosservata. Le denunce poi vengono spesso considerate inutili e quindi le autorità, le istituzioni, ma soprattutto l'opinione pubblica se ne occupano sempre meno e fatalmente anche il fenomeno continua a restare nell'ombra e ad aumentare, proprio ciò che sperano gli avvelenatori. I 12 cani avvelenati a Lampedusa, quelli fino ad ora trovati, sono una vera e propria strage. È bene che si sappia, una strage perpetrata da una mano ignobile e vigliacca, un individuo che sta uccidendo e che probabilmente colpirà ancora. Ma cosa hai messo nel caffè? Arrivano le denunce? Quali sono le aree maggiormente a rischio? La polizia elenca 5 tipi di azione delittuosa: avvelenamenti riguardo alla gestione della fauna, alla raccolta dei tartufi, ai dissidi condominiali, al presunto disturbo causato da animali, all'intimidazione criminosa. Quindi fate attenzione se vi trovate nelle immediate vicinanze delle aziende faunistico-venatorie, perché lì gli avvelenatori hanno il chiaro interesse a sterminare qualsiasi predatore che possa interferire con la loro attività venatoria. Anche i boschi in cui si raccolgono tartufi possono nascondere delle insidie. La concorrenza tra i tartufai può infatti spingere a cercare di avvelenare il cane dei concorrenti. Un altro tipico luogo di ritrovamento sono i confini di coltivazioni collinari e montane. L'obiettivo lì sono i cervi, i caprioli e altri animali erbivori che possono danneggiare il raccolto. In tutte queste zone è buona norma, durante le passeggiate, applicare la museruola al cane. Un boccone inghiottito in un secondo può rivelarsi fatale. Per questo il nostro consiglio è educare i cani a non raccogliere cibo da terra. Poi ci sono i dissidi condominiali, che solitamente hanno un obiettivo ben preciso. Quel singolo cane che abbaia, quel gruppo di gatti che fanno pipì o stazionano, violando un'astratta idea di ordine, pulizia e decoro. Come se avvelenare invece fosse decoroso. Sempre la polizia segnala un'elevata omertà sia da parte dei cittadini che sono a conoscenza dei fatti, sia da chi materialmente ha subito un danno. Questo dimostra indifferenza e sfiducia e ha come conseguenza una mancanza di informazione capillare e duratura da parte delle istituzioni. Degli animali colpiti e individuati, naturalmente molti non vengono denunciati nemmeno tra i domestici e i selvatici sfuggono sistematicamente al controllo. I cani sono quelli 4 volte più colpiti rispetto ai gatti. Alcune polizie, a fronte di perquisizioni, hanno sequestrato fino a 82 tipologie diverse di veleni, unitamente a pallottole non denunciate, fucili, pistole, parti di arma non denunciata o illegalmente detenuta, nonché tagliole, lacci, reti, trappole e altri strumenti, tutti per la cattura di uccelli e mammiferi selvatici. Tra l'altro, il maggior numero di segnalazioni di avvelenamento si hanno nei mesi di febbraio, marzo, aprile. Quindi il picco del fenomeno si verifica proprio durante le fasi di ripopolamento della fauna selvatica per l'attività venatoria. Anche per quanto riguarda la suddivisione territoriale, c'è la netta supremazia dell'area extraurbana in ogni mese dell'anno. Questi dati lasciano intuire che l'azione delittuosa più praticata sia quella relativa alla gestione della fauna. Ciò avalla anche il sospetto, espresso in molti ambienti, che il mondo venatorio, o se si preferisce chi ne fa parte, abbia un ruolo piuttosto importante in questo tipo di fenomeno criminoso. La dispersione sul territorio di esche avvelenate purtroppo non sta regredendo. E la ricerca del perché questo accade consente 2 plausibili deduzioni. La prima è che gli strumenti finora usati sono inefficaci, quindi la legge non viene rispettata né dai cittadini né dalle istituzioni. Il secondo punto è l'aspetto culturale, che in un certo ambiente persiste ed è radicatissimo: tradizioni ataviche, substrato sociale, interessi egoistici, abitudini familiari. E questo rappresenta davvero un duro ostacolo da scalfire, un ostacolo che non si può nemmeno confrontare con quello che può essere il gesto estemporaneo, rabbioso, insofferente o vendicativo fine a se stesso. In sostanza, se si vogliono eliminare i bocconi avvelenati, bisogna entrare con forza nel mondo culturale che li produce. Le pubbliche amministrazioni hanno sviluppato pratiche differenti per fronteggiare il problema dei bocconi avvelenati. Alcune hanno stampato dei vademecum, altre hanno tentato di lanciare un'app mobile gratuita che aggiorna in tempo reale l'utente sulle situazioni di potenziale pericolo per gli amici a 4 zampe. Ma i social hanno permesso ai cittadini di organizzarsi in modo autonomo e non si contano i gruppi nei quali ci si aiuta in una modalità non gerarchica, peer-to-peer, attraverso segnalazioni e aggiornamenti su bocconi avvelenati, cani o gatti smarriti e ritrovati e altre emergenze animalesche. Don't you know that you're toxic? Ma entriamo in aspetti maggiormente tecnici della questione. Da cosa riconoscere gli effetti dell'avvelenamento? Cosa fare una volta intercettati i primi sintomi? Lo abbiamo chiesto al veterinario animalista Massimo Raviola, autore di un libro che a noi piace moltissimo e che è un manifesto contro le razze e che si intitola Che razza di bastardo? Una delle principali cause di ricovero e purtroppo di morte dei nostri cani è l'avvelenamento. Soprattutto nei centri cittadini, le sostanze tossiche con cui possono venire in contatto ed ingerire sono svariate e spesso le intossicazioni sono accidentali. Ma come se non bastasse, esiste la piaga dei cosiddetti bocconi avvelenati, ovvero vere e proprie esche appetibili e velenose preparate dalla mano dell'uomo col preciso intento di danneggiare e uccidere i cani. Senza soffermarci sulle motivazioni che possono portare qualche individuo a mettere in atto tali orrori, che prevederebbe un bel trattato di psichiatria, vediamo cosa fare praticamente se succedesse al nostro animale. I principali veleni usati sono topicidi, che causano principalmente emorragie, i lumachicidi o la metaldeide, che provocano gravissimi sintomi neurologici e disarbanti che possono dare sintomi gastroenterici e neurologici. Per non dimenticare la stricnina, il più vecchio topicida, ma ormai fortunatamente fuori commercio da anni, che causa gravissimi sintomi neurologici e ovviamente morte. Da non dimenticare poi i bocconi non velenosi, ma confezionati con schegge di vetro o metalliche, che hanno il preciso obiettivo di traumatizzare gravemente il tratto digerente del cane. Bene, cosa possiamo fare allora? Il primo fondamentale consiglio è di educare fin da piccolo, nel limite del possibile, il nostro cane a non ingerire nulla di ciò che si trova per strada. Ma spesso succede lo stesso, ed allora, se succedesse, e sospettiamo che sia un boccone avvelenato, il primo step è cercare di far vomitare l'animale prima possibile, in maniera da eliminare il tossico prima che cominci a fare effetto. Il sistema casalingo più rapido e semplice è l'utilizzo di sale grosso, circa un cucchiaio per un cane di media taglia, fatto ingerire dovrebbe nel giro di pochi minuti provocare il vomito. Importante però non superare le dosi consigliate perché, come tutte le sostanze, anche il sale a dosi massicce potrebbe dare tossicità. Nel frattempo, ovviamente, il consiglio principale è di contattare immediatamente il proprio medico veterinario o un pronto soccorso veterinario per una visita urgente. Spesso però non ci accorgiamo del momento in cui il nostro cane ingerisce il boccone, magari perché sta correndo libero nel parco e lo trova in mezzo a un cespuglio lontano dai nostri sguardi, dove spesso vengono nascosti i bocconi. È importante allora provare a riconoscere i primi sintomi che possono comparire fra le 3 ore dopo l'ingestione, fino anche a 3-4 giorni dopo il fatto. In base al tipo di veleno possiamo avere vomito ripetuto, magari con presenza di sangue anche abbondante, diarrea, sempre con presenza di sangue, dolori addominali, sintomi nervosi come difficoltà alla stazione o alla deambulazione, convulsioni, iperagitazione o svenimenti, letargia, mucose pallide o itteriche, scialorrea, tachicardia. Ovviamente, appena si nota uno di questi sintomi e si sospetta anche lontanamente un possibile avvelenamento, l'unico valido consiglio possibile è di contattare urgentemente il proprio medico veterinario o il pronto soccorso veterinario più vicino. Come ultimo consiglio, per il bene comune di tutti, non appena si sospettasse la presenza di bocconi avvelenati, avvisare immediatamente le forze dell'ordine. Io non dimentico il sapore dell'erotico, scrivimi qualcosa di logico, pioggia dentro al rullino dell'iPhone. Io non dimentico, ho il Natale nello stomaco, gli occhi tuoi dentro il panico, la notte al distributore automatico. Io non dimentico il profumo dell'angolo dove mi hai lasciato quel sabato, vomitavo amore all'arsenico per odiarti un po'. Dopo aver parlato diffusamente del fenomeno dei bocconi velenosi e dopo aver affrontato anche l'aspetto medico-sanitario, resta da capire quali sono le implicazioni giuridiche. Ce ne parla Francesca Gramazio, avvocata della LAV, Lega Antivivisezione, una delle più importanti associazioni animaliste italiane, sicuramente quella più vicina alla nostra visione e alla nostra sensibilità. I casi di avvelenamento di animali devono essere documentati e segnalati perché la legge mette a nostra disposizione un importantissimo strumento per arginare questo fenomeno che è la denuncia, che rende anche poi possibile l'identificazione e la punizione degli avvelenatori. Avvelenare un animale infatti è un reato ai sensi dell'articolo 544 bis del codice penale e cioè uccisione di animali, o ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale, maltrattamento di animali. La denuncia quindi ovviamente deve contenere tutte le prove che l'animale sia stato avvelenato. Per esempio è importante allegarvi un certificato di un medico veterinario che attesti la morte per avvelenamento e anche praticamente il certificato di decesso se appunto l'animale è morto, e può essere presentata sia in forma orale che scritta in qualsiasi organo di polizia giudiziaria. Oltre alla denuncia è bene verificare anche che il sindaco metta in atto tutta una serie di disposizioni di sua competenza che sono previste dall'ordinanza cosiddetta dei bocconi avvelenati emessa dal Ministero della Salute nel 2019 e poi prorogata di anno in anno fino ad oggi. Infatti, questa ordinanza prevede l'apertura di un'indagine a seguito di una segnalazione che deve essere fatta obbligatoriamente dal nostro veterinario di fiducia ogni qualvolta attesti un avvelenamento. Il veterinario quindi dovrà segnalarlo al sindaco, che dovrà per prima cosa individuare la zona dove sono state sparse le esche avvelenate, dovrà bonificarla e segnalarla con un'apposita cartellonistica per evitare quindi che altri animali possano ingerire queste sostanze. Purtroppo non sempre i procedimenti penali nati a seguito della denuncia vanno fino in fondo e giungono quindi a sentenza di condanna, perché molto spesso sono denunce contro ignoti, perché non sempre si sa chi è l'autore poi di questi reati. Con la LAV per esempio abbiamo seguito un caso presso il Tribunale di Benevento, nel quale due persone erano imputate di uccisione di animali, accusate di aver avvelenato i gatti della vicina di casa che aveva rinvenuto delle polpette avvelenate nel proprio giardino. Purtroppo, pur a detta proprio del giudice all'interno della sentenza, pur non essendoci nessun dubbio in ordine alla sussistenza del delitto contestato, non si è però riusciti a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la commissione da parte proprio degli imputati dei fatti contestati, che quindi sono stati, diciamo, assolti. È un caso più fortunato, se così si può dire, nonostante l'argomento che stiamo trattando. È un caso invece molto recente, sempre seguito dalla LAV, che è accaduto in provincia di Vicenza, dove alcuni gatti e una colonia felina sono stati avvelenati con un lumachicida. È stato però in questo caso molto facile individuare la responsabile di questi gravi fatti, perché già nei giorni prima aveva minacciato, diciamo, di uccidere gatti e di sporcare il proprio giardino con le loro deiezioni. La titolare quindi della colonia felina, dopo aver denunciato i fatti ai carabinieri, ha esternato i propri sospetti sulla signora che, una volta interrogata dai carabinieri, dopo un poco ha confessato quindi proprio il reato e quindi è stata condannata e ha patteggiato la pena. Questo quindi è dimostrazione di quanto sia importante denunciare i fatti nell'immediato. Run, Sarah, run to you. I'll run from you. This stranded love you've given, I give you all a boy could give you. Take what tears and that's I'm living. All stranded love, stranded love, stranded. Touch me, please. I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go, and go, and go. Abbiamo aperto la puntata parlando dell'episodio dei 12 cani morti avvelenati a Lampedusa. Torniamo ancora a sud, questa volta a Brindisi, per la testimonianza di un'attivista DOC, una gattara che conosciamo personalmente, alla quale vogliamo molto bene, bravissima, che si chiama Antonella Brunetti. Perché è incredibile, ma vero, ma anche i gatti sono oggetto di avvelenamento. Sentiamo cosa ha da raccontarci sul tema dei bocconi avvelenati. La polizia, travestirsi, la censura, l'oppio, la religione, il lego, l'assenzio. Salve, sono Antonella Brunetti, presidente di un'associazione di tutela animale con particolare riferimento ai felini, ai gatti liberi sul territorio. E per diversi anni ho affrontato fenomeni legati alle esche e bocconi avvelenati, in particolar modo su una colonia felina che ho seguito per 10 anni all'interno di un'area condominiale. Questi lamentavano la presenza dei gatti, io ho cercato di ribadire tutte le norme di tutela facendo scendere in campo tutti gli attori istituzionali. In particolare c'era una persona che appunto era un militare e i genitori già odiavano i gatti. E lui un giorno andò a fare tutto un percorso di esche avvelenate con della carne macinata. Morirono fra le più atroci sofferenze tantissimi gatti. Mi sono trovata anche di fronte a dei croccantini impastati con una sostanza tossica che non era uno specifico veleno, ma era un mix di sostanze utilizzate in agricoltura. All'Appia Verde, che era quel condominio dove avvelenarono i gatti, nessun gatto si è salvato, forse una soltanto che aveva però riportato dei danni irreversibili ai reni. Perché lo facciano, non lo so. Io penso che la cattiveria è un sentimento tipicamente umano, compreso l'ego, la prepotenza, la prevaricazione, non dettata ovviamente dalla sopravvivenza. Il problema è l'uomo, come sempre, per cui non credo che ne verremo mai a capo. Purtroppo io porterò dentro di me tutti quei volti di gatti che ho amato e che ho visto soffrire inutilmente. Riconoscersi è la chiave che aprirà qualunque porta. Quando la terra si dissolverà, saremo liberi. Per concludere questa puntata abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporci una ricetta che avesse in qualche modo a che fare con il tema del veleno. Sentiamo qual è stata la sua proposta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dopo un'indigestione di veleno, vi propongo una ricetta disintossicante per purificare reni e fegato grazie al basilico, che agisce sui reni migliorando anche la digestione, al cumino, che aiuta a purificare il corpo e stimolare la circolazione, lo zenzero, che agisce su fegato, reni e colon, e infine il limone, che grazie alla vitamina C potenzia l'azione di tutte le precedenti spezie. Gli ingredienti per 4 persone per l'antidoto sono una manciata di foglia di basilico, un cucchiaino di cumino in polvere, una radice di zenzero fresco, il succo di mezzo limone, 2 decilitri di olio extravergine di oliva e sale marino. Con la punta di un cucchiaio grattate la radice di zenzero privandola così della buccia. Quindi grattugiatene la polpa e mettetela in una boule. Unite le foglie di basilico spezzate a mano, il cumino in polvere e coprite tutto col succo di limone. Lasciate in infusione per un'ora, quindi versate il tutto nel bicchiere di un frullatore ad immersione, aggiustate di sale ed emulsionate con l'olio extravergine di oliva. Potete usare questa salsa per marinare tofu, seitan o tempeh, oppure per condire insalate, verdure cotte o crudite. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Prima dei saluti, in conclusione, le ultime raccomandazioni. Non prendere mai in mano un boccone avvelenato. Chiamare sempre le autorità preposte. Segnalare con cartelli la pericolosità del territorio. Portare sempre con sé una bottiglietta con miscela di acqua e acqua ossigenata o acqua e sale da far bere al cane in caso di ingestione del veleno, in modo che vomiti e si possano guadagnare dei minuti preziosi per andare dal veterinario. Tenere il cane a vista, non lasciarlo vagare senza controllo e mettere la museruola se si avvistano strani bocconi a terra. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.